Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno, la trasmissione di Radio 24 che ormai da oltre un anno vi accompagna nei vostri percorsi mattutini o serali, visto che andiamo in replica alle 20:45. Oggi è il 9 ottobre e si celebra la Giornata Mondiale della Vista, promossa dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, IAPB Italia Onlus, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Questa giornata vedrà Radio 24 per tutte le 24 ore accompagnare questa giornata mondiale molto molto importante. Importante al punto che verranno effettuati controlli oculistici gratuiti in 36 piazze attraverso la misurazione della pressione degli occhi. Oggi, domani e dopodomani saranno a disposizione oltretutto degli oculisti nei gazebo appositamente allestiti. Allora io do due indirizzi. Il primo è un indirizzo di un sito internet che è www.iapb.it e poi do anche un numero di telefono 800 06 8506, ripeto 800 06 8506, per chi volesse saperne di più e volesse magari effettivamente sottoporsi ad una visita oculistica. Allora, noi di Un abuso al giorno accompagniamo questa giornata e ne siamo particolarmente felici attraverso tre ospiti. Il primo ospite è Tommaso Daniele, che è il presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Buongiorno Daniele. Buongiorno. Allora, poi abbiamo un radioascoltatore che si chiama Andrea. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Poi abbiamo Luisa Bartolucci, che è responsabile del progetto Daphne. Buongiorno Bartolucci. Buongiorno a lei. Allora, io mi scuso se ho dato per ultimo a lei la parola. Non sono un grandissimo, come dire, amante delle regole del Galateo. No, non è vero, non sono un amante delle regole del Galateo, però obiettivamente questa volta ho dovuto dare la precedenza al suo presidente. Mi scuserà, vero Bartolucci? Assolutamente. Non bene. Allora, io vorrei partire dal simpatico Tommaso Daniele per chiedergli, Daniele, oggi quali sono gli abusi maggiori che vengono perpetrati nei confronti dei non vedenti o degli ipovedenti? Tanto grazie per il simpatico. Gli abusi sono quotidiani, ma certamente non dovuti alla volontà della gente. Purtroppo c'è ancora tanto da lavorare per una cultura della disabilità, per creare una consapevolezza dei nostri problemi, e questo riguarda sia le istituzioni che la cittadinanza. Allora, questa mancanza di cultura porta i possessori di biciclette a lasciarle sui marciapiedi, la stessa cosa si dica dei motorini, e i rivenditori di frutta appoggiano le loro cassette davanti al negozio. I proprietari di bar mettono i tavolini sul marciapiede e naturalmente la persona che affronta il pericolo per guadagnarsi degli spazi di autonomia e di indipendenza corre seri rischi ogni giorno. Esatto, ecco, io volevo chiederle questo, Daniele. Nel mondo ci sono circa 47 milioni di ciechi e ci sono altri 334 milioni di persone che soffrono di un handicap visivo. In Italia quanti sono i ciechi e quanti sono gli ipovedenti? Guardi, abbiamo due riferimenti, uno di carattere ministeriale, cioè noi abbiamo il Ministero dell'Interno che eroga le pensioni attraverso l'INPS adesso, e da questi dati abbiamo 120.000 ciechi, 125.000 ciechi tra ciechi assoluti e parziali, e poi abbiamo un numero non ancora precisato di ipovedenti, cioè quelle persone che hanno un residuo dal mezzo decimo ai tre decimi. Oltre ad avere il problema anche del campo visivo. I numeri che dà l'Istat sono diversi, perché parla di 380.000 ciechi e di circa 1 milione di ipovedenti. Questa, benissimo, questi benissimo. Sono i dati che ci vengono dati. Ecco, quindi come dire, sono numeri abbastanza preoccupanti, perché testimoniano di quanto la cultura italiana sia lontana dalla sensibilità giusta e corretta che ci vuole per chi ha degli handicap, siano questi della vista, siano questi delle possibilità di muoversi, quindi nei confronti delle persone che hanno degli handicap motori. Credo proprio che in Italia manchi una cultura nei confronti dei diversamente abili, come vengono oggi chiamati, con un termine che a me poi non è che piaccia così tanto. Ma detto questo, io vorrei passare ad un episodio attraverso la viva voce di un radioascoltatore che abbiamo prima presentato, ed è appunto Andrea D'Amico. Andrea, lei ha da raccontare una testimonianza, una storia che io trovo francamente molto triste, che l'ha vista coinvolta nei confronti della metropolitana milanese. Può raccontare quello che le è successo, Andrea? Certo, allora, il giorno 25 settembre, verso le 16:30, ero nella stazione di Loreto, in direzione Albategrasso, stavo scendendo le scale, tenga conto che non ci sono degli ausili particolari per i non vedenti. Allora a un certo momento sento che il treno sta per chiudere le porte, sa che ha le porte scorrevoli e riesco a bloccarle, riesco tastando a cercare di entrare nel vagone, non ci riesco, ma in breve il bastone dei non vedenti è rimasto impigliato dentro le porte che si sono chiuse. Ecco, quello che io trovo raccapricciante è la risposta che le ha dato la metropolitana milanese, cioè le ha detto, lo dica lei perché a me fa veramente anche un po' senso dirlo. Ecco, il treno a un certo momento è partito, il bastone, che è un bastone canadese, si è disvelto, diciamo si è scomposto, perché è un bastone formato da dei pezzi cilindrici tenuti insieme da un elastico. Il treno non si è accorto di nulla, io sono rimasto col bastone in mano e praticamente stavo per cadere, mi hanno sorretto le persone che erano lì dicendo fermate, fermate, e solo allora il treno si è fermato. Il bastone si è spezzato. Ecco, lì l'ha detto alla metropolitana milanese, a questo punto lo dico io, le ha detto ma non si preoccupi, tanto le faremo poi arrivare la parte del bastone che le manca. Insomma, francamente mi sembra una risposta assolutamente non degna di una società civile, dico io. Abbiamo cercato ovviamente metropolitane milanese, con la TM di Milano siamo riusciti a parlare, però sono molto impegnati, per carità di Dio lo siamo tutti, non hanno avuto il tempo di mettersi in contatto con noi, hanno gentilmente declinato l'invito dicendo che avevano altro da fare. Oltretutto io ho qui sotto gli occhi la relazione morale dell'Unione Italiana Ciechi nei confronti della TM di metropolitane milanesi, e certamente una relazione che lascia moltissime ombre proprio sul modo di condurre i propri rapporti nei confronti dei non vedenti. Io terminerei questa puntata dedicata appunto ai ciechi e a coloro i quali vedono poco, proprio chiamando in causa la nostra radioascoltatrice Luisa Bartolucci, responsabile del progetto Daphne, alla quale chiedo di commentare quello che è successo ad Andrea e di presentarci il progetto Daphne. Il commento è molto semplice. Purtroppo dimostra quanto, nonostante gli sforzi che la nostra associazione compie, siamo ancora molto molto lontani dal avere nel nostro paese una cultura dell'handicap degna di questo nome. E purtroppo non è testimoniato solo dall'episodio occorso ad Andrea, ma anche da ciò, dalle risultanze del progetto Daphne a cui lei faceva riferimento, già che anche all'interno di questo progetto, che principalmente è rivolto alle donne non vedenti, ipovedenti, e quindi ha messo in evidenza le violenze che nei loro confronti vengono perpetrate, violenze e abusi non solo di tipo sessuale ma anche di tipo psicologico e sociale, sono emersi anche episodi di questo tipo, problemi con i mezzi di trasporto, problemi anche sul posto di lavoro, dove spesso e volentieri i lavoratori non vedenti subiscono anche il mobbing E sappiamo anche che il mobbing è qualcosa di molto pesante per tutti i lavoratori nella generalità dei casi, ma lo è ancora di più per una persona disabile, in quanto mette veramente a dura prova quella che è la loro capacità anche di inserirsi all'interno di certi contesti. E laddove già il non vedente compie degli sforzi notevoli e vive comunque una situazione di stress non indifferente, va da sé che subire il mobbing è un doppio problema per una persona che non vede. Certo, certo. Io ringrazio Luisa Bartolucci. Grazie e a voi. Sono contento di aver lasciato a lei le parole conclusive, anche per farmi un po' perdonare per quella indelicatezza che ho avuto inizio trasmissione, quando, pur essendo donna, io ho dato per primo il saluto al suo... Noi crediamo nelle pari opportunità. Esatto, al suo presidente Tommaso Daniele, che ringrazio. Grazie Daniele per il suo intervento. Grazie a lei. E ringrazio ovviamente il nostro radioascoltatore Andrea e Roberto Galullo, ovviamente. Grazie a voi. Grazie Andrea. Nel ringraziare io in regia Giacomo Spunta, in studio Laura Faggin, dico che domani torniamo con una nuova puntata di Un Abuso al Giorno. Vi ricordo il nostro indirizzo, unabusoalgiorno@radio24.it, il nostro e il mio blog, che è http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Una buona giornata a tutti e a risentirci domani.